Oh no, di nuovo lui, non si può, ogni volta sempre lui. Ma di chi è che stai parlando? Del CD di Chain Rap, l'album. Ehi, i riferimenti alle persone in questo testo sono puramente casuali, quindi se vi sentite tirati in ballo sono fatti vostri. Scempio assoluto, la cittadina ha messo il muto, silenzio tombale, in TV c'è il TG locale, parla di questo disordine che ha guastato l'ordine, siamo come pedine di una dama, c'è una donna che mi chiama, mi racconta ciò che affronta ogni giorno, quando toglie la polvere di torno, mentre la sto ad ascoltare, vedo una lacrima solcare il suo viso, mi parla di suo marito che è in eterno riposo, per colpa di un fatto scandaloso, è inutile ripeterlo altrimenti sarei noioso, e poi mi diventi per malo. Ti permetti di criticare chi difende l'ambiente? Scusa se mi permetto, ma sei un deficiente, incosciente, anche un ignorante. Parli a vanvera e non si capisce niente. E goofy per difendere il presidente, ma lo vedi quanto sei angosciante? E vieni, questo è Leni con i suoi veleni. Abbiamo bisogno che intervieni per mettere i cammini dei freni. E vieni, questo è Leni con i suoi veleni. Abbiamo bisogno di ricoltivare i terreni. Per cui vieni, così ci sostieni. E vieni, questo è Leni con i suoi veleni. Ci sono bimbi non ancora sereni. Quindi vieni, è inutile che te la meni. Vieni. Castellaneta Marina, c'è una nave pellegrina, ci manca solo che rovina lo scenario di questo mare, e tutti curiosi lì ad osservare, da dove arriva te lo lascio immaginare, in questo caso bisogna agire e non stare lì a guardare, vieni a farti una vacanza, scatta una foto con la nave per testimonianza, eppure c'è chi nega l'evidenza e la difende con arroganza, prova a immaginare combustibile nella tua pietanza, e assai sgradevole immaginarlo, figurati ad assaporarlo, la notizia è finita su tutti i giornali, nazionali e internazionali, alcuni affermano che la nave non la rimuoveranno, anche secondo me resterà lì per tutto l'anno. E vieni, questo è Leni con i suoi veleni. Abbiamo bisogno che intervieni per mettere ai cammini dei freni. E vieni, questo è Leni con i suoi veleni. Abbiamo bisogno di ricoltivare i terreni. Per cui vieni, così ci sostieni. E vieni, questo è Leni con i suoi veleni. Ci sono bimbi non ancora sereni. Quindi vieni, è inutile che te la meni. Dai, vieni. E c'è lo scontro finale, quando il popolo si vuole ribellare. E c'è il casino totale, quando un pediatra dice che è tutto normale. E c'era un sospiro di sollievo, fin quando ci credevo. Ora ci credo ancora, c'è la City che implora. Un operaio manda tutto in malora. Ha capito che lavorare per morire non serve a nulla se deve soffrire. Condizioni precarie, situazioni rivoluzionarie, che fanno male più di una carie. Qui ci vogliono azioni beneficiarie, e non solo parole per essere votati, per poi venire arrestati, perché chi inquina paga, non lo dico io, lo dice l'UE basandosi su chi sbaglia paga, la fabbrica della diossina e l'industria dei veleni, non ci fa fare sogni sereni. E vieni, questo è Leni con i suoi veleni. Abbiamo bisogno che intervieni per mettere i cammini dei freni. E vieni, questo è Leni con i suoi veleni. Abbiamo bisogno di ricoltivare i terreni. Per cui vieni, così ci sostieni. E vieni, questo è Leni con i suoi veleni. Ci sono bimbi non ancora sereni. Quindi vieni, è inutile che te la meni. Dai, vieni. Ok, basta. Questa è l'ultima canzone che faccio, perché li ho sputtanati troppo. Ma ricordatevi che chi sbaglia veramente paga, e non è solo il ritornello di questa canzone. Ciao a tutti, bella raga.